Il comandante dello shuttle Pat Melroy l'ha definito l'ingegnere più creativo che abbia mai conosciuto ed è un bel complimento per un ragazzo di 50 anni che arriva allo spazio partendo da Verano Brianza. Da ragazzo Nespoli è a Pisa, dove diventa paracadutista e poi incursore. Nell'82 a Beirut agli ordini del generale Angioni. Accompagna i reporter e diventa amico di Oriana Fallaci. Si dice che sia proprio la grande giornalista a convincerlo a puntare allo spazio, ma di certo si tratta di un sogno coltivato già dalla scuola. Dopo 2 anni libanesi ci prova, studia ingegneria a New York e a Firenze. Nel 91 entra nell'Agenzia Spaziale Europea. Tutto sembra in discesa, ma ci vorranno ancora 3 lustri. L'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, sigla un accordo con la NASA. Parti di stazione in cambio di opportunità di volo. Ci sono più chance di fare il ministro che l'astronauta, si ripete lui per non illudersi. Guidoni vola nel 2001, mentre Nespoli completa addestramenti e qualifica a Houston. Tutto pronto, poi il disastro del Columbia del 2003 blocca la costruzione della stazione. Ancora addestramento, anche in Russia, dove conosce e sposa Sonia, figlia di un istruttore di cosmonauti. Una lunga strada, insomma, che porta dritto a Cape Canaveral. 50 anni compiuti ad aprile, la sua tenacia sta per essere ripagata. Partendo, mi ha detto, un solo rimpianto, suo padre che non lo potrà vedere. Nello spazio porterà allora le fedi dei genitori, che la mamma gli ha affidato, togliendosi per la prima volta dopo 50 anni. Di personale, veramente personale, non porterò molto. Mio padre è purtroppo mancato da pochi mesi e mia madre mi ha dato la sua fede da portare nello spazio. Volevo anche la sua, quella che lei aveva. È stato un po' difficile toglierla dal dito perché ce l'aveva da 50 anni. Mi ha guardato in un modo un po' strano e poi ha capito che era giusto averle tutte e due assieme. If you believe, they put a man on the moon.